vibra ancora un organo, ma non suona più. Fuori il grano è alto già, non tremare più. Resta qui nell'anima, resta solo tu. Ho sofferto, amato e pianto, non parlare più. Tornare a casa tua, quale dubbio hai? Questo velo su di noi è felicità. Per pagare, per morire, sempre tempo c'è, ma il tempo dell'amore non mi basta mai. Il mio pensiero ai capelli tuoi, io ti sento, sei sincera, dolce vento vai, i tuoi fianchi tremano, dolce vento vai, ho sofferto, amato e pianto, ma tu non lo sai.